portare. Sì, ti dice, ho già fatto tutto facendo, per carità. Cominciamo a dire, ciao Antonio, allora. Ma se vuoi ti piglia. Schizofrenico. Ma no, è che mi sono spostato già. Cazzo, gli ho detto, non rispondo. E dopo ho pensato che fosse capo di gufo, invece non era lui. Antonio! Ciao, ci sono tre guasti qua. Ma c'è tutto giù grande. Tu Antonio, se vedevi a Titi quando era piccolo, prendeva la minco, se saliva sul divano, si alzava, faceva. Che fate per seguire, non ce la facevi. Una molla, No, è Giuseppe. È tutto da poco grande giù grande. E la sei giugata. E te pusi sul minore. Che carino che è. Quanto ne sciolto. Ma non l'ho mai fatto però. Ultimamente si sta odorando in terra, sta odorato e si sta tutugando, capovolgendo. Non riesco a capire il perché. Si sta grattando. Se si contorce tutto vuol dire che sta grattando. Tutto... vabbè. Chissà cosa è stato in capo. Sì, voglio di giocare, eh. Sono piccoli ancora, mi piace giocare. Bello, piacere così, bello. Ah, niente, niente di che, già, ora ti racconto di bello. Non va a raccontare. Sono un po' nervoso per una cosa, cosa mia, beh. Vabbè, rilassati, affatti di nove mesi. Rilassati, tranquillo. Vabbè, io oggi invece sono tornato a lavoro. Oggi devo rientrare, andare a fine. Cazzo, non mi hanno avvisato, mi ha visto il mio collega, e tu non mi sapevi mai. Ti sei rotto. Indovina un po', gli ho detto. Io già indovino, sì, bene, mi ha fatto vedere i turni, Gianni in ferie un'altra settimana, vado. E vado malamburi, orribili di mazzate, mandari. Vabbè, già lo so, ma quelli lì sono cose abitui, non c'è problema, c'è lavoro, ma non mi ha mai lasciato abitui. Ho sempre fatto tutto tranquillamente. Sì, c'è un bel lavoro. Quello lo so. Oramai sono già tarato. Ah, ci mancherebbe. Ma è interessante che ogni mese lui si ricordi quello che deve fare. Poi del resto non c'è problema. Tu sino adesso sempre in anticipo ci ha pagato. Deve pagare entro il 10, loro. Tra le 6 e 7 ci paga. Non è un problema quello. Ho detto che lui ci ricordi ogni mese, poi il resto non c'è problema. Vabbè, io lo grido. Poi quando c'è un bel lavoro, se non ce la faccio da solo, manda la sua camera a lavorare, no, non c'è problema. Gli altri anni già me lo facevo il mazzo, ma poi ha compreso e diciamo qualche aiuto già me lo dà. Quando serve me lo dà. Comunque è quello l'interessante, non sono tutti, capito? Tu vedi il comune ogni 15 tu vai, se va al 14 non ce n'è, 15 sicuri al 1000 per 1000. Una volta sono andato lì all'Uversole, no? Vado lì perché devo fare un lavoro. Ho fatto un tipo, gli ho detto, mi ha chiamato per fare delle penne, no? Mi ha detto, ma ho fatto un attimino lì alle poste, ma in banca, sono fermati. Io ho un documento, una cognome, non c'è niente. Come non c'è niente? Ma stanno scherzando. Sono in codice 15, è puntuale il comune, come dice non c'è niente. No, è impossibile. Guardi i stipendi a vedere. Ah, ecco. Qua ci sono. Come la guida, senti, vabbè, è giusto che sia così, chi lavora deve essere retribuito in orario, non è che devi stare sentendo o dandoli via agguttigi il gorgo. Io un amico qui da cintura adesso, 200 dopo, 300 dopo, alla fine si è rotto il palazzo, ha fatto lavoro e se n'è andato. Vabbè, ma si prego, ho preso, vabbè, oddio, mi sono qua, per carità. Il quasi 1500 euro l'ultimo stipendio. Però vabbè. Vabbè, vado da lei nel baro. Vabbè, lui se non viso non è più. Vabbè, pazienza, vuol dire da gusci. Chiamo quindi a travagli, più dai gusci di me, tanto hai avuto la vaglia. Posso? Purtroppo siamo tutti nella matricivagna, ma il brutto è quando non ce li hai da dare. Se che ci arrivi a darli, sei a posto. Poi quando non ce li hai, dopo ti devi facciare un cavo per comprendere come ti devi fare. E chissà sì. Guardi, come ti dico già, il tavolo su un lato e il tavolo su un grebo, tranquillo e sicuro, guarda tu, riprendi. Vabbè. Comunque bisogna darsi anche da fare. Non lo si va a fare, e poi ad ammazzarmi. No, ammazzarti no, però. Cioè, bisogna cercare di fare qualcosa. Da fare, ma lo sento, tu. Poi ti siamo fatti 5 ore, hanno trovato il cioè lavori, c'è un film, poi ci ti rispondi una va. No, scusa, ma in Dio sicuro film. Chiappa. E bisogna anche inventarlo. Sì, se lo fai una moneta, non so come fai inventarlo. Guarda la moneta. Io già saprei cosa fare. Eppure, vabbè, tu lo sai che è perché la vuoi. Eppure, ti voglio dire, a te, se un domani ti devo sentire lavoro, come fai? Non se ne è compreso nulla. Tu hai la calpestato. No, ho detto cosa fai se tu hai tua acciuga, spara, roba così. E anche. Ma come? E la acciuga non viene avanti. Capito? Ciao. Il porcone faccio. Ma la richiudere a te. Quello vuole fatto. Porcone. Ja. Sì. Bisogna sapere fare anche quello. Te la prego, vengo. Caffa. Hai come se ti sei fatta con lo stai? Non ti fa guadagnare, porco. Te la dita a te. Vai, ti fai zicche zicche e ti fai baga. Che gigolo fai? So, a tu gamba a carra roba. Uia. In giro di un mese diventa ricco. E da viviamo delle favole, anche un cazzo, abbassi la bufola tutti. Non è favola, non è favola, no, ti preoccupare. Luca. Tu ridi, ridi. Vabbè. Che casino. Io mi sono ritornato, Luca di marito di nuovo, fu un po'. Sto prendendo l'influenza. Madonna. Diciamo, Luca, bisogna accontentarsi a volte. Io ho un amico per dire che guida gli autotreni. Beh, se li piglia per andare in continente gli danno solitamente 200 euro, roba così. Se gli offrono 150 euro non li piglia, rimane senza trovare, ma non va. Ma sono per forza. È un casino lì, fa tante ore, ti mastichi tante ore di guida, non è facile già. Perché quello là che ti. Se tu. Allora facciamo un esempio, tu sei imparato a pestare, ok? Se fai quel viaggio minimo le prime, più di 1000 sono anche 2000. Ma tu non hai ragione così, non lavora. Cioè, piuttosto che dalla testa ma un altro me. Ma non puoi ingrassare pure all'astia tu, hai capito? Ma anche tu mi fai un'impresa aerea, ragazzo. Mi chiamo la mentira, io non vi vengo, capito? No, mentira non mi piace manca a me. Mentira radio, dai. Facciami vedere 40 io vado. Allora se gioco senza travaglio io vado, perché devo mangiare. Ma Giuseppe mi pigliava, le dicevo, 30 euro, praticamente faceva l'allutto, all'una, ma di due anni che un mezzo, sì, ma c'è buffone, 30 euro anni. Allora manco 40, me le vuoi dare? Non te l'hanno più per il cioè perché non te l'hanno più a tu. Sta scarseggiando molto l'edilizia, sta scarseggiando un muratore di 50 euro, capito? 50 euro al muratore, 60 al muratore. Qui vale per gli anni altri 20. Ah no, c'è un scarseggio, molto scarseggio. E come nel mondo, se ne dicono la pure, ne è stato che sarà venuta. Però se la muori poco. Così, cosa deve fare? Purtroppo bisogna dal poco bisogna accontentarsi. Allora come ci verrai durante una settimana? Allora come ci verrai? Però c'è troppo strozzinaggio. Ascolta, ma tu sei stipendiato o mi sei pagato? Perché rovini il mercato poi del lavoro. Se ti accontenti magari ne approfittano, capito? Tutti quanti li pagano così dopo. No, già, cosa deve fare uno che fa mille cose da pagare? Da pagare? Cosa deve fare? Cioè, uno quando fa una macchina, quando fa un qualsiasi cosa, in qualche maniera deve fare per campare. Già è vero, Anto, quello già è vero. E bisogna accontentarsi, infatti. Però anche dall'altra parte ne approfitta. Perché dice, vedono che hanno bisogno, no, ti do più tanto, se no ti rabbini luci. E ne approfitta, ti strozzineggia. Ma sì, quello che ho detto io, c'è troppo strozzinaggio. Quello lì no, non mi piace. Perché sono anche le leggi di questa Italia, qua lasciamo perdere, non la voglio dire la frase, di pirla. No, ma le leggi da una parte ti proteggono, sì. Però non le fanno rispettare, non le rispettano tutti, capito? Quella è la ragione, c'è gente che fa il furbo. Perché tu pigli da basso un'altra paglia, tu la devi pagare come te la devi pagare, non è che devi te la pagare in niente, no? Cioè, devono mettere anche in condizione. Cosa è? Una settimana lavori, quella settimana ti è assicurato. E la butti ne ha poco. Due settimane, un mese, due, cioè devono mettere in condizione di essere tutto a posto, la busta paga a posto e tutto quanto, e andare a controllare se effettivamente è così. Invece no, tutti ne ha butti di yo-yo. Allora. Una colonia immigrata, io a Genova devo fare la disoccupazione, la requisiti ridotti. Ma tranquillo che non mi rilassi. Dai, che se ti aspettate la lampa? Tanto va, sono sicuro che mi mancano giornate, io sono mancato due volte in quattro mesi, due volte. Una perché dovevo pagare la lavoratore dell'ENE urgente, non potevo neanche mandare la mia madre, perché prima non ho dato il mio stipendio. E poi mi ha pagato la bolletta. E poi un'altra volta perché mi sentivo male. Non mi ricordo poi che cosa. E siccome che tu io metto la giovane tra è proprio cazzo, come si dice? Cercava più giù, ecco. Consegnava invece di resigna. Diciamo che tutto sul groppone tuo, che se tu io sino da chi tu non potevi andare. Ma purtroppo io ero in banca, non potevo andare su a prenderti, solo io potevo andare. Cappa cappa, quello sì. Sì, vabbè, un giorno in ritardo non è che penso che facessi nulla. Ma era già troppo in ritardo già. Vabbè, lo so. E dopo devi staccare la luce, è un casino. Anzi, l'ho fatto in tempo A pagare e fare il fax, tutto a posto. Poi facevano anche il fax, ci passavano 20 giorni e ti staccavano la luce. Perché no, il pagamento dopo 10-20 giorni, non so, voi ci andate al posto. Sì, ma prima ti abbassano il chilofatto e poi te la staccano del tutto. No, quando che ce lo fanno noi prima no. Staccano direttamente, ogni tre mesi staccano direttamente, non te la abbassano. Cioè, non è normale, sì. Sai che non lo possono fare? E tu l'hanno fatto. Perché tu che non c'hai? che devono darti un tot, altrimenti sono passibili di denuncia. Ma tu, quella di 3 mesi è nel, non so come si chiamava, questi di buona mamma, guarda, che ci hanno frullato un sacco di soldi, cioè mi hanno fregato, ma che ne a me, travagliati, l'usurore buru. Comunque quella di 3 mesi, quella lì, già l'ho stancata, perché la mattina ci alziamo, vabbè, siamo rimasti praticamente allora, dalla mattina alle 8 alle 3 siamo riattaccata. E noi così facciamo finta che se ne sia andata la luce per un paio d'ore, va. Allora ho pagato il ritardo. Ci avevo pagato la bolletta, però non come si dice, non avevo fatto il fax, poi ho fatto il fax e dopo facevano le attaccate sempre lo stesso giorno. E altro che non sta fax, praticamente nel tasto, no? Se tu vai solo il quadro, fa stack, va a vuoto, capi sto buo strano, ma se chiamiamo, lo chiamati all'ENE, però tu fai così, se la luce l'abbiamo staccata, minchia, ma che tempo ti hanno dato, eh? Il tasto, se tu vai solo male, va a vuoto, non sale, cioè fa stack, ragazzi, chiama, perché te lo staccano dentro anche là fuori, però hanno commesso una cosa che non dovevano commettere, avanti già. E io so, infatti che è così, perché tu cosa c'è, viene il sì. Questo marino non è nel silato, uno di 3 mesi già. Non lo so, ce ne sono tante società. Questa amica mia, non so se ho preso una di queste società qua, dell'energetica, non male che ci aveva messo in banca, se no sarei stata con la terra. 1500 euro ha pagato un mese. Poi ci avevamo fregata a noi. La bolletta non arrivava, non arrivava, un po' in ritardo la bolletta. Avrò pensato, arriverà 200, 250, 300. E non arriva la prima 260, mi sembra una cosa del genere. E poi le altre ha preso. Una, vabbè, la prima 260, 270, non mi ricordo di preciso, sono lì, le ho pagate. Poi un'altra 190, un'altra 170, un'altra 154, non mi ricordo, vabbè, poi un'altra 600 dopo 2-3 settimane, dopo 2 settimane. Ma me l'ha arruinato già, come sono di cacchio, avrei fatto tante cose, 2000 euro sono tanti, La raffica ti sono arrivate, com'è possibile? Caratterizzata, ci vuole un cabudetto, ma non giù bagagli, capito? Ma lo stipendio non sono andato, prima cosa la seconda volta, cioè dopo 2 settimane è arrivata con la 600 rotti euro, agli umiliati, non l'avevo giù, ma ti pagato la bolletta. Quanti nemmeno, guarda, anche piangendo, va. Oh, vabbè, se non porti i 50 euro, puliti e puliti. Con sudore. Ma le bollette così metto tutti i consiglieri a te, non solo a te. Se non arrivi così a raffica, come ti vai? E neppure a Giubagatti, vedi, è proprio un po' male da Giubagatti. Vabbè, ma secondo me ci sta arrivando 100, 120, adesso è arrivata da poco, qua è 100, 110 mi serve. Scusa, ma quanti mesi hai travagliato? Tanto. Ma in 4 mesi, cioè, non penso che tirarti, se sono usciti tutti, no? Ma travaglia, non conti, no? Vabbè, hai chiesto sì. Ah, tu non vuoi mangiare, non ho un'idea, cosa mica di pesi i sagumetti, però certo qualche cosa me la sono comprata, tu. Però ci sono volati, però lavoravo, ogni giorno io spendevo 50, 60 per mangiare, ogni giorno. Già, ma che non si trova niente. Non ho un problema. La cosa pochi spiccioli ce li ho conservati, ma comunque. va bene, sono volati, se sapevano non vuol rimanere tranquillo, poi quello che c'è a pagare, ti scrivo, lo sto pagando tranquillamente, facciamo la tra poco, 20 euro, la prossima settimana, no, l'altra settimana, mercoledì, allora la mamma la paga. 20 euro, io invece una cazzata. Pagare, bravo, non lo vai? Sì, capo, è pure che c'è vero, vabbè, ma 20 euro li si possono pagare. Vabbè, ma non lo vai, non ti va a pagare lì. Sì, perché non è buono. È nessuno, è proprio un fatto che non travaglia e ormai non rimanca niente, no? Capito? Poi quando uno inizia già a scarseggiare, allora si trova difficoltà. Però non cerca di neanche di mangiare un euro. Capito? Poi vabbè, comunque. Adesso cerco di fare il furbo io, nel senso che cerco di essere gli assurdi. Mi gestisco meglio, così vado un po' di insomma, di fare le cose come si tocca. Chiappa. Ehi, vabbè, allora, piano piano già si è aggiunto tutto, sperato di trovare subito altro lavoro. Non lo so, speriamo, se no, finché la macchina la lasciamo andare. Allora, tu fai domande, zecca di... Mantengo per quel corso di spazzino, eccetera, eccetera. Ah! Quel corso di sbarco, quel corso. Non ti avevano fatto fare la prova per lo spazzino? Per lo spazzino? Sì. No, che spazzino? Un operatore ecologico, cosa maratossiera. Ah, ho fatto la prova di orietà del... Sabine ha fatto in bella. Sono passato, sono idoneo, solo che purtroppo per via della laboratoria dovevo aspettare. Poi il vado urbano lo stesso, in laboratoria, per il vado urbano, come si dice? Solo che questa non ce la fanno più. Siamo arrivati a 30, mi sembra 35, io ho 42esimo, perciò non mi tocca. Che affa, beh, vai, che si deve urbano, bisogna fare solo una cosa partigliata. Ma dagli un culo? No, entri i baci, caccherocale, si arrestano. Da poi sai com'è per inserirti, eccetera, eccetera, sì, già è stato un buccio. Ma non so, non so capace tu, però me adesso no, però mi sono domani, ci ricavo e posso, e faccio quanto vuoi. Questo è uno peggio dell'altro. Che tutti i delinquenti sono? Stanino invece c'è che l'hanno chiamato a fare la prova al medico della foro, dice che l'ha fatto fare medico, hanno misurato se beveva, tutte queste cose qua. Chiappa. Allora, non ti piglia, sta dritto io. Però non avete compreso che avrei che vedrendo. Ma l'hanno già chiamato l'anno. Lo so, le hanno fatto fare, dal medico del lavoro le hanno fatto fare delle prove per vedere se beveva e tutte queste cose qua. Ma da poco? Da poco quanto? Non lo so, ma lo stava dicendo l'altro giorno che gli hanno fatto fare tutte queste prove, ha detto che l'ha bloccato il medico del lavoro, si era la cadria travagliente. Ma è pavosa! Perché ha dovuto fare queste visite, sino a quando faceva queste visite non poteva entrare. Oh, che proprio uno non ha bisogno qua. Ma allora, da con noi, questo qua, non me lo faccio nomi, ma l'altro lo conoscete neanche. Ma quando la domanda è un muratore, ok, l'hanno preso tutto qua, da 4 ore le prove non è qua, ok. Ma non lo abbiamo qua il muratore già, non lo abbiamo qua. Abbiamo fatto un maniari, capito? Se prendono la sapere e si prendono, non si prendono un muratore. Facciamo così, queste cose che aveva zio, quanto è mulato non lo sapevo fare nulla, si sono buttati lì di geometri, si è fatto la rida, un attimo altri muratori, ma c'era molto Sandro, però era convinto a vita, cioè convinto nel senso, si era già vedeva che aveva la responsabilità di tipo capo cantiere, là, diciamo. Guarda, era allucinante, tu devi vedere lì, ma guarda, mi sembra come è lì, ma la traglia era molto bravo, molto bravo. Beh, guarda, io mi ricordo, tutto il ricordo, proprio quando hanno seppellito a mamma, c'era un muratore, era un treno della Vallini. Ah, ci ha messo questi mattoni in pochi minuti, chiuso 5 minuti e ha fatto tutto. Vabbè, però, vedi, questo Sandro è allucinante, lavorava, è un animale, però un animale, capassoli, gli angali, trova alieni, cazzo, la trovatura, si intende, guido, vumba, si viene in terra, è un casino qua. Quindi tu basta andare lì, e se no, in via, cazzo di via, comunque, la chiesa di San Vincenzo lì, se tu guardi questo pavimento, partendo laggiù, no? Dove c'è la chiesa, se tu non la porta la chiesa, comunque da giù a salire, tu la metà la porta lui, la pavimentazione, perché purtroppo il tempo era quello, 4 mesi, c'erano già 2 mesi, 3 mesi, si è fatto un mese lì, hanno fatto oltre la metà di pavimentazione, senza contare, vabbè, pure tutti forse i livelli, cioè livelli del piano, diciamo, no? Regolato del massetto, guarda, se la bugata, luci chi si abbiazza, luci. Ho capito dove, ma la proprio la piazza della chiesa? Guarda lì, ma se ti capita, che passi, qua l'abbiamo fatta noi. Ma paga, ho capito dove, la via che poi ti porta il carabinieri, lì crucevo il carabinieri. Bravo, non mi ricordo che via c'è, via qua, non mi ricordo. Via Togliatti. Via Togliatti, bravo. Se non mi veniva, si appagava. Lo so, però è anche sbagliato, perché magari uno c'ha la mano buona. Dopo il bisilato, toccato Francareci un coso, pavimento. Poi sono disorganizzati, no? Sì, l'acqua con i bidoni, poi dai bidoni a buttare dentro il coso grande, no? Ma no, sono proprio un mia di un sacco di griseva, un mia santa di. Ma organizzati meglio, cazzo, un negozio lì, non c'è l'acqua, un po' di. La pompa riempie il coso, la che si chiama la latta grande, dai. È un passante? No, la latta, dove metti l'acqua, una latta grande. Ah. E se no metteva un ottobotte, era più chiamata l'ottobotte direttamente. Ma sta, fatto la mano, ragazzi, la bettonina di Anisini di osso. Per comune, guarda, il comune ne ha soldi, tanti. Stava scarseggiando, sai che cosa anche già? La, come si chiama? Il materiale, ecco, cemento, mattoni, di tutto. Ma si fa una cosa? Cioè, non sei sicuro che devi bisarrà. Non ti ricordi che la bisarrà. Allucinante, guarda, allucinante. Questa roba contata, è con tutto che i soldi ci sono, ma se ti dà un sacco invece che date le 10, di naga si ripiglia. Vabbè, tu mangia mangia in chivia, capito? Tutto mangia mangia, comunque vabbè, facciamo come vuole, ma non mi interessa già. C'è tra attimi, no? Io. Beh. Fanculo. Troppo alto di water. Capo, io. Sono entrata la ventola, è entrata anche. Abbassalo un pochino. L'ho abbassato. Hai capito già come funziona? È così. Diciamo che mi sono trovato i primi giorni, poi la dopo stava sorseggiando persone di merda, cioè una persona di merda, una. Ci sono sempre, la pecora nera c'è sempre, poi questi posti qua è tanti canti gazzanzini, niente così. E ci fate da truppino. Chissà, la gente che ci ha lavorato, niente che tutti canti faccia tu, vabbè, ma si può rimanere tranquilli in mezzo, capito? Per carità, fanno cazzo la frittata fanno. Io non mi trovo di male con niente del genere, mai. Ma non. Poi, primo giorno mi ha messo con questo, cazzo, baia, io un cazzo, bam, bam, bam, bam, giorno, e che cacchio? Ma dov'è il tipo la bozza, scusa? Ma che stiamo sicuri? Vabbè, ma calma di parola, ma sono un figliolo, scusa. Cazzo, ti vado a fare la bozza? Anzi, tu di 4 mesi un ghisto, ma qua ti vuole... Lui la fa per finire, ma che fa una ventina di giorni. Mamma mia, quindi lavori poco bene con questa gente qua. Oh, io c'ho un mio collega che così da mattina presto sa come c'ha voci. Si rabbia con tutti, a bozzi, la salita di tutto, trovi a me figlio, ma che stavo lì come ti faccio a sepultare? Insomma, allora me lo domanda Maria Gabriella, come ti sei a casa giù di tutto? Ma cosa non te l'ha dato per l'ultima, per la regina di pulizia, la vedente la sepultare giù di tutto, e tu dici, salute, non te l'ha data. E a sta grande domanda, l'ultima di mangiare, sono appena entrato, e già mi si sentite degli a cosa. Chi si cascette tutti tanti bolsi mari, chi si ridatta, sempre così, sempre, ma non ce ne va con me, non ce ne va con le commesse. E detto, dai, ma ti date la regola, una abbassata di gozzi, di griffa, gatto, ma sempre ti che rende, ti pari una lavadora. Ma ce ne sono tanti, qui su Matteo, c'è un giovane tra di, non so, questa però le quota, tra da bordo, un giovane tra voodoo, sono una parrotta, coglioni, si può fare un casino, lascio tutto, fatelo voi, non mi piace un cazzo, è una parrotta le balle, tutto sta portando a voi, a bordo, io ho tramuto, non ho attunciato nulla, cioè, ti puoi dire la posizione, diciamo che sei in guarda praticamente, e soccorrono loro, hanno una responsabilità nel tuo cantiere, perché si muti, non ho attunciato, nulla. La ciappa è come una giusta, manco guarda, scusa. Comunque Gianni, ma tu hai qualche responsabilità giù, non so, boh. Non so se hai comandi qualcuno giù. No, comandare non c'è responsabilità di me. E poi c'è la responsabilità del lavoro che faccio, normale come tutti, no? No, comandare non comando nessuno, anche perché a me comandare non mi piace. Se arriva una persona nuova che ti chiede un consiglio come deve fare la cosa, glielo spiego senza comandare niente. Ma a livello di amicizia proprio, glielo dico di fare così, così, così. Se poi sbaglia, dico, no, secondo me, guarda, è meglio che fa così, perché poi magari non va bene. Ecco, detto in una maniera dovuta, no, a bozze e cose. Non ne ho mai fatto voce a nessuno, le voci le faccio solo a chi le fa a me. Allora, se tu mi prendi a voci, il capo magazzino li riporta a Edo e gli dico che sono spesso dietro, c'è ancora vita. Vabbè, dico, come me, nel senso, se ti danno il tuo capo a guardare adesso gli operai, certo di comandare, nel senso che di loro se lo devono fare. E poi non comando, tu li devi dare, no? Sì, quello lì sì, quando viene gente nuova gli faccio vedere la forza, che comandare, gli faccio vedere come si fa, e se mi chiedono qualche cosa gliela spiego, quello sì, però in effetti comandare non è una cosa che mi è mai piaciuta, anche perché io li sarei stato, cioè, me l'avevano proposto quando sono entrato di praticamente di controllare il personale, andare a dire loro quello che faceva, tutto quanto, a me fa chi si dispone di trovare non mi piace. Ho detto che volevo un lavoro normale, che fare la cascetta non mi piaceva. E vabbè, quando questi qua gli hanno il comando, quasi su, proprio qua lo fece, no? Questo primo giorno sono entrato, mamma mia, cazzo, erano animali, un animale, va. La responsabilità ce l'ho io, il giovane non conta un cazzo, cioè il giovane che comanda non conta niente, ma qua era. Dico la verità, io l'avrei fatto. Sai perché anche? Perché lo so fare bene, sono. Cioè se a me mi danno quell'incarico, lo so fare bene. Perché faccio finta che. Cioè non se ne accorgerebbe nessuno. A me non piace, cioè è una questione proprio di principio, a me non mi piace. Come non se ne accorgerebbe nessuno? Se tu vai e dici per dire quello lì non ha fatto quello, quell'altro non ha fatto l'altro, allora cosa ti critichi? Non lo sai che hai detto tu. A parte quello, ma poi non mi è mai piaciuto. Per me quello non è un lavoro, quello è fare la carogna e basta. Vabbè, io non le danno con l'incarico. No, vabbè, la carogna. Se uno sbaglia seriamente, glielo devi fare, ma non uno che no, che magari fa una stronzata. Aspetta un attimo, che no, che mi tengo un po' così. Adesso i colleghi che hanno toccato il furgone quando c'ero io, ti hanno messo tutto il terracco, fatto. Me l'hanno detto chiaramente, già mi è successo, cosa so, devo fare a gacetta, andare a dire, guarda che ha fatto questo, ha fatto l'altro. Vabbè, purtroppo usi, di gruppi sono sempre. Una questione caratteriale anche lui, che non è mai piaciuta a me, né farmi sottomettere né sottomettere gli altri. Sono stato sempre a rivedermi, io mi faccio il mio lavoro, pure paraucci, perché prima aiutavo, facevo, adesso io mi faccio il mio, gli altri si vanno di loro, perché gli altri cercano sempre di scaricarti la loro roba su di te, capito? Io so quello che devo fare, faccio quello che devo fare, se avanza tempo gli posso dare anche una mano, ma se no, io a quell'ora mi devo innanzi, da voi si arrangia chi viene da voi. Ma tutto il giorno aperto già? Tutto il giorno. Ma che fanno i turni allora? Sì. Non ho capito. Vabbè. Comunque. Un casino perché non si buttano gli augusti, no? Che sia su la balle e boh. Lavorare in armonia è una cosa diversa, dai. Vabbè, quel mio collega che grida non è Maru, la verità, è solo bu bu bu bu e basta, non è che sia, state sempre morroniente, infatti lo chiamiamo vena gonfiabile, a chi cade si incanta che si gonfia la vena del collo, lo chiamiamo vena gonfiabile, devo rimanere lì, li mettiamo sopra nomi, cosa, e Busecca, lo chiamiamo, e anche sopra nomi. Non è che sia cattivo come persona, anche da voi che si incanta magari ti va della battuta e cose, non è di quelli cattivi, però è brontolone, sta sempre brontolando, non andava benissimo, cazzo per dire, per il traspare, cazzo per prendere la roba, cazzo di subito lui, ma cosa c'è scritto? Il nome tuo, io l'ho trovato lì, l'ho preso, il traspasso per tutti. Allora mi dice un buffet, poi mi pongo a braccia con certe, non fottuto, da me che trasparo mi dice un bebè. E tu che non mi sei andato a mille anni da 30. Io ho trovato lì, l'ho preso, per dire. E mi pongo pure a redì, come fate di redì a un bel di voi. Vabbè, ma anche a me è capitato una volta la Nordingos. Già, eppure. Non vuole quando usano il trasporto elettrico, ma ti fai questa cintura, una badana, lì va quando una base transita. E tu quanti cazzi vuoi fare questa una badana la leva? Che vuole lì tipo una salettina, diciamo. Ma per la quanti alla con il trasporto, in due pure andavi. E non provavo a toccare il trasporto elettrico. Perché noi non avevamo assicurato, non so, la squadra non copriva. Ma io quello lì tutto lo uso per tirare la pedana, lo faccio da solo, però c'è anche l'esperienza di 30 anni di lavoro, dentro c'è la salitina anche da noi, e cos'è che succede? Che molte volte se non fai fretta andare si incastra tra spalle, incastra la salita e il piano. Si incastra lì è un casino qui a Tullio. Ecco, sono infatti, lì fatto il break. Ma infatti no, un tipo una muta, tipo le porte si aprono e si chiudono, ma un tipo una muta trova una barra da lampaggio, poi è costa, e poi non l'ha fatto pagare, e allora l'ho fatto pagare una bottiglia di, per purtroppo sta tutta, non per colpa mia, per colpa dei clienti, ma l'ho spassata e con tutta terra, non è arrivata a pagare una bottiglia di filini. E mi ha che ribadito un'impura di ramazzo di chissimi anni e ti ha rotta, boh, e adesso io quasi faccio andare il vecchio, guardate il vecchio. Capo, buonasera signori, buonasera a tutta la rotta, Sandro a Porto Torre. Ciao Sandro, buonasera anche a te, ben sentito, dai. Gianni Doppio Rum in compagnia di Bombolo e di Luca, avanti. Ok, ciao Gianni, Gianluca, Bobolo se non erro. Va bene, dice Luca, vai. Ciao Sandro, buonasera, ben sentito. Buonasera Sandro, buonasera, ben sentito. Sandro, hai sentito tanto? Sì, capo, l'ho sentito un po' passino, e non so da dove stia modulando. Lì a Sassari o meno. A Sassari. A Sassari modulo. No, non mi senti lì a Porto Torre. Ok. E c'è sotto passino, C'è sotto il passino tanto, non tanto di segnale, ma quanto di radio. Tutto lì. Non posso farci nulla, no? Purtroppo le mie condizioni sono queste. Ho capito, va bene, diciamo che se, non lo so, adesso magari si è limitato e così via. Va bene, riprendi Gianni. Antonio, vabbè, c'è un'antenna, diciamo, non sul tetto, ce l'ha fuori dal balcone, abita al primo piano, quindi va bene così, dai, già va bene. Io dalla macchina lì lo sento anche se non fortissimo, ma lo sento sino tranquillamente a metà del corrotone. Dipende anche dal punto dove ti trovi. Ok, se sta uscendo fuori con un attimino, allora sta arrivando fin troppo bene, diciamo che non ho... a queste condizioni, diciamo, sta uscendo fin troppo bene. Va benissimo, ok, riprendi Luca. Sì, infatti, per le condizioni di greve va più che bene, dai. Già si fa sentire, no? Non c'è problema. Guarda, sai cos'è il problema? Il fatto che uno ha una radio da 10.000 euro quando non c'è antenna. Oppure l'antenna non c'ha radio, sempre lì. Diciamo, l'antenna è un baracchino decente, diciamo, buono, ma non tale che si faccia sentire. Ci vuole l'antenna e baracchino. Ma io ti dico la verità, dai, io sto usando 12 watt. Vabbè, non c'entra niente il watt, dico, esci bene, la radio è forte, va bene. Ci vuole un baracchino, un microfono buono anche, e anche una buona antenna. Ci vuole un'antenna, vai, copri quella zona, ok, non vai oltre, ma se c'è un'antenna buona, riesci a superare tanti ostacoli. Chiaro, ma a me mi basterebbe averla sul tetto, anche non un'antenna grandissima, e poi te la faccio vedere io dove se arrivo da tale parte, dalla zona qui in cui sono, perché già arrivo così, immaginiamoci se mi metto un'antenna sul tetto. Sì, vabbè, così è, avanti già, ripeto il tutto a girare, vai. Ehi, vabbè, dai, lui c'ha quel problema lì, che è un casino mentre la lanterna sul tetto. La di chi si gira, Antonio, si muove tra lì c'è la terra e via. Sembra una direttiva. Avevo da tradizio. A me mi basta. Anche cosa si può mettere. A me basta anche. Mi basterebbe anche un arringo, poi la faccio io la differenza. Arringo già ce l'hai, tu ti piacerà. Sì, sì che ce l'ho, cazzo, ne ho due. Solo che non l'ho mai montata perché non ho il posto. A me basta quella, non è che mi interessi molte cose, poi la differenza se adesso la faccio io, che è chi, allora comincio già a bucarne arnesi. E sono cavoli. Beh, Sandro, a Porto Torres qualcosa si è mosso. No. Porto Torres. Porto Torres è tace. Porto Torres è nella tranquillità più assoluta, capito? Non c'è, diciamo che non c'è stimolo, non c'è idea, non c'è niente di poter, diciamo, mettere in funzione, diciamo, tutti gli apparati che ci sono per Torres, almeno penso che ci siano ancora, perché allora, diciamo, nei vecchi anni addietro, diciamo, allora non mi ricordo che ce n'erano. E solo che sai cosa è già, i tempi cambiano, poi ci sono tante altre cose, dai. Non so se tu mi sappia rispondere, però mi ricordo bene l'ultimo carnevale estivo di aver visto un gruppo che ci avevano giubbotto, gruppo CB Porto Torres. Quindi qualcosa esiste ancora. Allora, non te lo so dire, guarda, non lo so. So che anni addietro, diciamo tempo addietro, c'era formato questo gruppo CB, c'era la sede addirittura, c'era stata la sede lì alla Torre, poi c'era stata la sede lì, tornando indietro nel tempo, all'Arena lì, quel casseggiato lì a, come si chiama, lì, entrando al porto lì vicino alla Pizzaniglia sulla destra, che poi era stato tutto demolito lì, e poi logicamente si era disfatto, non lo so. E esiste ancora questo, non te lo so dire. E all'Arena lì, da dove c'è Alex Scende, era lì, io ci sono andato anche perché le ho vedute apparecchiature a quella sede lì, riservano delle apparecchiature, c'erano pure e le avevo vendute io, le avevo dato una fesseria, giusto per cominciare cose. Abbiamo venuto alimentatore, baracchino, avevo venduto microfono amplificato, eccetera, eccetera. Allora c'era la buona anima di Fernando anche, non so se tu l'hai conosciuto, quello che faceva il camionista con i baffi, che mi ha dato impressione che guarda ci sono andato. Sì, me lo ricordo, il povero Fernando che faceva il camionista, lo so, purtroppo non ho fatto in tempo, diciamo, neanche ad assaporare la pensione, che poi non ce l'ho sempre andato, lo so, purtroppo delle volte la vita è un po' crudele. Sì, esatto, lì a Marinella l'ex-chef, sì, dove c'era quella vecchia fabbrica, sì. Sì, e allora c'era, mi ricordo che c'era Francesco Morizzo e tanti altri che adesso magari non ricordo, sì, era un bel gruppo, mi dispiace perché Porto Torres ci credeva molto nella 27, io mi ricordo, se giri ancora vai al satellite e trovi antenne da tutte le parti. Specialmente al satellite c'erano molte. C'era via delle Vigne, insomma, via Piemonte. Io che giro col mezzo, lo so, le vedo ancora e dico, peccato se ci fossero tutti questi qua, se fossero tutti in ascolto o che avessero voglia di rientrare sarebbe bello. Anche perché molti erano pescatori, io mi ricordo anni addietro, parlavo con coso, con... non mi viene in mente come si chiama, però chiamava il marito, diceva, dove sei? Rientrando state? Dice, sì, stiamo rientrando, beh, cosa avete pigliato? Poca roba, tanta magna, e mi dice, sono comunente da passa. Poi se mi sentiva a me scendendo in macchina, io già passo a pigliarti un caffè, là, era troppo forte. Satellite mi pare si chiamava, no, poi c'era anche coso, c'era... Angelo Vasso, tutti quelli lì. Sì, esatto, Angelo Vasso, poi c'era Luigi Morgan, ce n'erano. E solo sai cos'è? Gli anni passano, magari c'è chi ancora tuttora ha l'apparato dentro l'armadio, c'è chi magari qualcuno lo studia ancora e lo fa riscaldare, magari ascolta, rimane in ascolto un po' di tempo, e bisogna vedere, dai. Bisogna vedere. Io lo stesso ero già, circa 10 anni. Circa 10 anni che non moduravo più. Poi mi è scattato di nuovo il pallino, mi era sempre lì dentro l'armadio, ho detto va, adesso lo parliamo di nuovo, va, è tutto così. Va bene, le prego dunque. Ho preso 10 anni che sono mancato. Come? Anch'io lo stesso, 10 anni che sono mancato dalla radio, l'ho ripreso. E io lo stesso. Praticamente il periodo che si è fermata la frequenza. Ma io penso una cosa, che se non la passano ce la ritorna, come è successo a noi, sa, succede anche agli altri. A noi è successo e penso che se uno ci teneva veramente che la passione ce l'ha dentro, prima o poi accende di nuovo. Sì, beh, questo sì, poi bisogna vedere. Bisogna vedere magari le condizioni, dipende, magari si trova in un punto, magari è disturba, vabbè che disturbare al giorno d'oggi col digitale è molto difficile, molto difficile. All'infuori che uno non abbia proprio un'antenna marcia, proprio un impianto, proprio a livelli scarsissimi, perché sennò oggi disturbare è molto difficile. Oppure se uno non usa una potenza proprio omicidiale, allora sì. Però ripeto, dipende sempre dalle condizioni, c'è chi magari che si è trasferito, c'è tante cose, capito? Tutto lì. Beh certo, io qualcuno che conoscevo anche di Porto Torres, gli ho detto riprendete, abbiamo ripreso, come l'ho detto a gente di Sassari quando l'ho trovato, guarda che abbiamo ripreso con la radio, se vuoi entrare, gente di quella che c'era prima, hanno tutti ripreso, bene o male, quasi tutti hanno ripreso quelli che l'ho detto. Poi ho fatto qualche giro di telefonate, ho detto se volete riprendere, ma qua, ma là, ma adesso mi tocca ricomprare l'antenna, la signora magari si attacca perché spendo soldi, piano piano, questo e quell'altro, gli ho convinti e via. Lo so, poi c'è da dire anche da quando è cominciato a uscire il computer, è cominciato a uscire il telefonino, tutto è cambiato, insomma è tutto difficile, però diciamo chi ha la passione logicamente ci ritorna, capito? Anche magari c'è qualcuno che fa ascolto, tutto lì. Va bene, dai, stavo spazzolando un po' il canale, ho sentito, era giusto per fare una piccola chiacchieratina, ne approfitto. statemi bene, buon continuo di qua ciò e salutoni a tutti. Per bene, ciao. Ciao Sandro, allora, buon corretti, buon 144 quando lo farai. Prendi Luca e poi fai. Ciao, buonanotte, alla prossima, ciao, guarda. Sandro, buonanotte, ci sentiamo alle prossime. Oh, ci vediamo, ti vediamo. Qualcuno riprende ogni tanto, anche se non tutti, dico, qualcuno ancora c'è che la passione ce l'ha. Sono contentissimo, perché bisogna far andare, cioè bisogna che questa sia sempre una passione buona. Purtroppo anche le nuove generazioni non ne comprendono manco un cazzo di questa roba. E quello è il motivo, finché ci siamo noi andrà tutto avanti, poi dopo no, non andrà più. Vabbè, qualcuno nuovo ogni tanto entra, però non c'è questo attaccamento, a meno che poi conoscano bene la frequenza, vedano anche la propagazione e tutte queste cose, magari appassiona. Però è sempre una cosa un po' astratta. Diciamo che qualcuno c'è ancora che le piace, che l'ha scoperta anche da poco, le piace. Perché il computer, cioè c'è il computer, sì, anche io lo uso il computer, però sono due cose diverse. E questa la vedo una cosa più calda, più familiare, ti conosci uno con l'altro. Ma il computer è tutto diverso. Purtroppo chi è un vero CB, chi è un vero CB deve fare anche in radio, non può dire io sono un CB e poi cosa cazzo fare. Cioè, almeno alla puoi fare una voce alla chiesa, non hai tempo ancora, però lo devi fare, perché sennò non sei un CB. Bisognerebbe occupare i più canali, esserci più frequenza della gente. Invece molti hanno mollato per il computer, qui non ci stanno. Sono scelte, ognuno fa ciò che vuole. E dopo che mollo il baracchino, per dire, dopo che mollo qua, vado e mi accendo il computer, per dire, vado al computer, faccio l'uno e l'altro. Io questo lo faccio la sera e basta, perché poi non ho tempo per fare niente. Vabbè, uno lo fa quando c'ha tempo, non è che... Ma prima mi ricordo che c'era uno e c'era l'altro. Magari non c'eri tu perché stavi lavorando e c'era l'altro che magari in pensione poteva entrare, ho capito. Ho sentito la secchia al buffo l'altro giorno. L'ho sentita anch'io. Ma dice che è stato poco bene. Non so appunto. Infatti ho detto che sta giorno gli ha detto, come mai il gufo non si sente qui? C'è perché il gufo è malato, sta poco bene. Invece poi l'ho sentito, dai, grazie a Dio. È ancora quello più pazzo. Gappa. Così è. Troia, vedi te, non lo so, a me mi ha sempre, se da piccolo mi ha sempre appassionato il baracchino, la frequenza, però queste nuove generazioni manco ne conoscono. Tanto io ce l'avevo, il primo baracchino, quando avevo 14 anni, ti dico guarda. Chiaro, pure io quella età lì, mi piaceva, mi ha sempre appassionato. E io ho preso direttamente un apparato CB, non il walkie talkie, che cosa. Ho trovato un'occasione dove questo qui non riusciva a parlare col baracchino perché dice che non funzionava. E un amico mi ha detto, piglialo che lui non lo sa, ma ci sono i quattro verdi, tu li lo paghi, dopo li mettiamo a posto noi. Se l'ha giubiliato, poi abbiamo invertito i quarti, tutto il gruppo, abbiamo provato e funzionava alla grande. Un 4 e mezzo, 3 canali, vai che ce n'è, la faietta. sei uscito? Ho detto, così si comincia. Quello lì mi ha lasciato che arriva a battere le parti, ma via chi s'antennone chi, oiui. Io proprio penso a venire una lima in Tanturino, un trasformatorino di chi si dà in breccio, gruppo di chi di. Facciamo un po' di alternata, tu diciamo, c'è un po' di alternata, lo so, ma non ne ho altro alimentatore. Poi piano piano abbiamo comprato l'alimentatore suo, il BC, allora non c'era ancora Tonino, quello che lavorava la motorizzazione, quello qui basso. E poi piano piano ho cominciato con i primi apparecchi, ho avuto su Simpson, ho avuto il Cosol, poi ho avuto subito l'Hagen Quinto alla grande l'Hagen Quinto era dopo forse. Diciamo che eravamo dei più buoni in quel periodo. E l'ho avuto subito dopo il portatile, però io l'ho avuto subito dopo il portatile, l'Hagen Quinto, poi mi sono comprato l'EMB, allora lo vendevano, li vendevano ancora, il Tabler MB2 con lo celeste e grigio, non riempo il Giambo Aristocrat e mi sono messo la Gran Play sopra il tetto, una Gran Play, la REM, Gran Play della REM e quelle con i radiali 275 in uno di chi si mandi. E andava bene, dopo che andate in dire sul grosso, voglio dire. Ma che non facciamo manca andare tutta la potenza. Si ammassavano le luci si ammassavano. No, la mara. Sembrava che si stesse fulminando la lampadina, dovrebbe essere abbortato. Se adesso viva la corrente si abbassava la luce. Entrava via madre, già, e veniva la fame. Poi quello lì era il periodo che si stava sino alle 7 di mattina, un po' bello, tra la notte stavo durando, vedi mamma, mi di fronte, è finito di parlare che disturbi, è finito. Un due è esagerato, io tutta la volta, sino lo sabato, ui, sabato si faceva tutta una dirata. A voi che andate in diviso gordo nella zona, a Giulia. Io aspettavo tardi per accesso, aspettavo all'1:15, c'erano le gare. A quella zona così, intanto mi destreggiavo, avevo messo la Mantova 1 e allora sì, andava la grande. Chiappa, è forte. E poi una antenna molto più grande, e però pure quella Gran Play che attuccava. Tanto quella Gran Play me l'ho venduta, è salita la persona che la voleva, perché sentiva che pompava un bel. Penso che mi ha detto, già, vendila a me quella lì, e ti posso dire anche che Angelo ha supportato Torres, glielo è salito su, se l'ha smontata, abbiamo piazzato l'altra, e gliel'ho venduta a seconda mano. Già, vabbè. Che ne serviva allora a comunicare con la ragazza che abitava a San Giovanni, doveva piazzare alla ragazza. Io abitavo a Torres e la ragazza a San Giovanni, doveva piazzare alla ragazza e se l'ha comprata. Quindi io non ci ho preso proprio nulla, non è andato bene. La voglia. E a voglia che allora si divertiva. Un chissà Gran Peso V5 arrivava a Alghero. Dopo qui allora non c'era inquinamento atmosferico, arrivava da tutte le parti arrivava. Ma era pure buona, era. Sì, l'antenna sì. Se Gran Peso così non le fanno più. Va di butto, non ricordo per l'acqua. Quella della Lemme è uguale, sempre rimasta quella uguale di una volta, mi sa. Soldo, i radiali erano 2,75 in uno, i radiali laterali era grande, non era piccola. E quella lì è sempre così. Vabbè, comunque io ho avuto quella lì, quella andava bene. Ho messo il radiale centrale, li butto, testa in giù per l'acqua, coprire bene dove c'era una diaria attaccati, un imbuto come si faceva allora. Già, e dove sto dicendo io, è così, cioè, è sempre rimasta così la grazia. E magari adesso è fatta con che economia, non penso che avesse così l'ottone, gli attacchi dei radiali, l'ottone ciccio, ma lo dice vedo, aveva la filettatura, avvitavi, era tutto l'ottone completamente. È così quella della lemma. Non so, l'ho più vista io, e ti dico la verità, me ne hanno veduto uno Agostino. Agostino ne aveva uno in garage che l'aveva comprata, l'aveva piazzata, l'aveva mai piazzata. E me l'ha venduta. E c'avevo questo ragazzo di Usini. Di Usini ha preso, vedi me la vendi, me la vendi, me la vendi, che la volevo tenere come seconda antenna. Poi alla fine è venuto un giorno a casa con i soldi e la vuota e me l'ha già venduta. Montata. C'era dentro il nylon ancora, non era manco aperta. Detto, se l'ha montata, se l'ha lui. Ma non lo so, non lo so che cosa abbia fatto, se l'abbia montata, mi sa di sì, mi sa che l'avesse montata. Ma così non mi è brata, dentro la busta l'ha ancora chiusa, mi ha detto già qua io c'ho un'antenna, se la vuoi, dammi tanto, io te la do. Così è successo, mi ho dato quello che aveva chiesto e poi ho data a questo qua di Usi, non so se poi l'abbia piantata, non so dire. Era uguale a quella che ci avevo montata io. Oh, la piazza. Però, Antu, ti ripeto, così non c'erano un bel IA in garage ferma. Non l'ha mai avvista, però me l'aveva un bel IA, me l'ha detto lui. L'avevo comprata per piazzarla, però l'ho mai piazzata. Perché quando si mette questa casa qua, poi ho avuto problemi e non ne ho voluto più piazzare. E l'avevo comprata apposta per piazzarla, ma dice l'ho lasciata lì in garage, no, già l'ha mantenuta, diceva sul suo palco, per me, c'è tutto quanto, non è che non è stata né schiacciata, né niente, c'era proprio il suo alloggiamento, per non schiacciarla e non urtarla e farla. E me l'ha data lui. Ecco, ne dovrei avere ancora qualcuno di antenna. È un peccato, E poi Agostino, te lo ricordi, si chiamava Avo, come nominativo Avo? No, io non ho mai parlato con lui. Agostino, allora c'erano i carabinieri, c'erano una macchina 127 blu con l'antenna lunga lunga dietro. E lui ce l'aveva fatta apposta come quella, ce l'aveva 127 blu, ce l'aveva messa l'antenna proprio nella posizione dei carabinieri, tutti gli facevano il saluto quando lo vedeva la macchina, lui se lo salutava. I carabinieri, cazzo male l'antenna dei carabinieri, aveva precisa ed indica col mollone dietro. Una scena. Quella era 2,75 con l'antenna, tutto totalmente in acciaio andato. Un mollone di quelli grossi grossi, non di chi si immaginava, di chi dei maturi, proprio ben dei massicci. E tutto in acciaio. 2,75 l'antenna, a partire dal parafango di dietro in alto. Già, e purtroppo già quelle che fanno adesso, ma con la maniera, bisogna accontentarsi. No, già sono buone anche adesso, però quelle lì erano proprio, usavano materiali diversi altro. E quello in resina, non c'è l'antenna dei buoni. Uia, c'è un classico di una di ex una volta. Non lo posso immaginare. E per i tempi che erano buone. Beh, non sai una cosa, che ho trovato ancora le istruzioni della sigla di X. Le trovate, non sai dove, in quella scatola che ha trovato mia moglie con tutte le QSL. Non te l'ho mai fatto vedere, è vero? Come l'hai fatto vedere? Le QSL. Ne hai portato una. No, le QSL che mi spedivano dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna. Ah, beh. È una scatola. No, quelle non mai. Io te le posso vedere. C'è una scatola grande. l'abbiamo mandato i sottobicchieri della birra, monete, la bandiera della Svizzera, depliando la città dove ho collegato questo, un sacco di roba. Pagato. C'era questo Pascal che ho collegato dalla Francia ed era una persona di capatto, bovaraccio. Purtroppo. Quello lì si dedicano a queste cose. Beh, certo, un mezzo di comunicazione con gli altri, no? Sei invitato ad andare, lo sai. Sei mai andata? No, tu come fai in Francia? Perché mi ha ospitato a me tutta la mia famiglia se andavo. E gli ho detto, guarda Pascal, non ti prometto nulla perché io sono legato al lavoro. Sì, sì, lo capisco, mi ha detto Francesco, vi compri. E niente, avevamo fatto amicizia, ci eravamo collegati un paio di volte e poi secondo la terza volta gli avevo chiesto se ci mandavamo la corsella e lui ha detto sì sì volentieri, e avevamo contraccambiato, io avevo mandato quella in Sughero dalla Sardegna e lui mi aveva mandato queste qua. Sempre. Uno mi ha mandato la questione e ha due facce. Tu secondo come la giri sorride oppure diventa triste. Come bellina. E ce ne sono tante. C'è quella di Londra che ho fatto al quadrato. Ecco, ma quelle lì non ho più collegato a Londra io. Non è più. Diciamo che sono soddisfazioni, non è che sia, sono soddisfazioni. Allora ti dico una cosa, a Londra l'ho collegata con un amplificatore da 50 watt. Vedo se c'è la propagazione buona da fare. Un amplificatorino che avevo vinto alla lotteria sempre di CD, che aveva fatto Torino Kawasaki questa lotteria, io avevo vinto l'amplificatore da 50 watt, aveva messo i primi, no? Momento di ghiaccio, ma no, non me ne ricordo, c'era comunque un amplificatore lo stesso grosso e quindi valvolare. Primo carino. Uno l'ha vinto anche Tonino di premio, l'ha vinto e mi pare il secondo, terzo premio l'ha vinto lui, poi gli altri diciamo spazi. Come pare che avevo vinto il terzo premio, un premio. Vabbè, comunque qualche cosa l'ho vinto. E come bisognava fare? Bisognava. Come funzionava? L'aveva messa in una ruota di Cagliari, mi pare. Quando uscivano i numeri, ognuno prendeva il suo numero e l'ha messo il cartolino. Pagava i risultati bussuti, 100 franchi, non me ne ricordo quanto era esattamente. A ditti. Sento un franco che lui ti dava, ci aveva due coppie di numeri, no? Perché il numero 31 te lo dava a te e uno le rimaneva attaccato al libretto. Poi quando usciva la ruota di Cagliari controllava i numeri e in base al numero che avevi preso avevi vinto primo, secondo, terzo, primo, il primo numero che usciva di Cagliari era il primo premio, il secondo numero, il secondo premio e via dicendo. Chiappa. E comunque bello così. Si facevano queste cose in frequenza, c'era anche la battaglia navale. Giochevamo anche la battaglia navale sempre in radio. Oh, dopo come se io. Comunque ce n'erano di cose, si faceva. Caccia al tesoro, di tutto. Ma grave. Io ho partecipato. Che cosa? La caccia al tesoro, le gite. Ma quando frequentavo via Luzzatti c'era la serie di CB. Partecipavo io, allora ero un ragazzo, mi ha detto un bel giovane, 18 anni così. E beh, sempre. Certo, mi sarebbe piaciuto anche a me partecipare a queste cose qua. Io frequentavano bene i ragazzi, c'erano molte ragazze frequenti, venivano in sede, si ballava, appunto si faceva. Un certo di aggregazione. Ed è questo che arrivava alle sede. All'inizio, quando non c'era il più box, mi arrivava alle sede e poi prima le dava il presidente. Quando entravi, Gianni, guarda che c'era questa due per te, e me la dava. E poi si mangiava la farina tutti insieme, c'era un sacco di cose di scherzava, nascevano gli amori anche tra ragazzi e ragazze. Chiappa. Sì, pure i capriotti sono murati, non solo le cose buone, no? Hanno visto dei caffiotti molto molto dopo. Ah, così è. Sì. Quando frequentavo io la sede di Via Luzzatti era tutta gente, vera dei maresciallieri, dei carabinieri, vera tutta gente così, tutta gente anche altoloncata e cosa. Modulava dentro, modulava anche così. Beh. Forse erano gli anni un pochettino tranquilli. A noi c'erano cominciato delle robe. Sì, ma giusto in quei determinati canali succedevano. Io li evitavo e non vorrei canali più tranquilli. Chiappa. E sono pure gente che aveva da rimanere a vero, cioè. Sul sì. Gente che ti lasciava parlare, da poi come ti lasciava parlare ancora, ti faccava la faccia, e cioè, sono fatte. Sì, quella lì, ho sempre evitato queste cose, sempre evitato. C'era l'imbarazzo della sciatecca, io giravo, dove c'era gente che mi piaceva mi fermavo, dove c'era anche gente che non mi piaceva andavo avanti. Chiaro. E purtroppo era così allora. Poi a venire a poco niente che si gridia la se forte da poi quell'aghito che ne variava e vabbè fai, magari manco lo conosci e ti diceva la resa e tu cosa hai detto? E lo so, c'era anche gente che provocava cosa, ma per carità. Oppure di sovrapposizione diceva, oh, io lo vengo in casa, io li sentivo. Beh, è normale. Cominciava, è vero, è che tu verai gente che si divide a brutto, una combricola, commentava una persona, un anno e mezzo e via, per guardare i grossi. Avevano anche la potenza, la sovramodulavano, dovevamo gripare, io dovevamo incazzare, dai, pronti, svegli, aiuto, via. Non contavano di cose che non aveva fatto, ma è vero che tu hai rubato qua, io sono una persona onestissima, non ti permettere che hai partito. Fangulo, ho toccato il tasto, mi sono cambiato il canale. Io ti stavo dicendo che sulla modulazione magari entrava uno, e uno dice, io dovevamo incazzare, io dovevamo pure in mezzo, dovevamo essere grosso. E però sempre, dipende sempre da chi trovi, perché tu che non si incatta, dove chi tu che si incatta un bel. A Gambero l'hanno fatto a beffa una volta, questo Gambero che entrava diceva, che lavoro fai Gambero? E lavo la sabbia, tutti ridenti, questo è il mio trovare, lavo la sabbia. Poi c'era così, mi lavorava la sisla, lavava proprio la sassa. Che schiaffa, gente cretina. Lo prendeva in giro, entrava la moglie, voi e mio marito dovete lasciare in pace. E gli diceva, signora Gambero, mi scusi. Schiaffa, e comunque molti hanno esagerato. Che ti lasciava un tipo come te e me fa di e non ti dico nulla e t'acciappo perché ti trovo. Io sono sempre andato d'accordo con tutti, non è che me ne fottiamo di che si cose. Io parlavo in baracchino quando potevo, se avevo per a casino giravo il canale, allora si poteva fare, c'erano un attaccato, di solito erano 34, 40 erano già un me. Poi devi scegliere quello che volevi, di troppo c'era gente che non bastava i canali normali, ce ne andavano a mandare a pedale, ce ne andavano sotto, sopra, tutti i bassi li acciappavano. Scappa. Non è che... E capito, io sono una persona che magari ti mando mezzo a quel paese, però non dico manco nulla. E chi da voi? Io sono pure ai cittadini, hai capito? Cioè, non... Ti ascolto, a vedere se ci caschi nei discorsi, dove abiti... In tutte quelle cose di... Ma poi te la posso pagare. Sono fatto così io. Dico dopo una massa di cagnotte a faccia. Lo so. Ah, sono tempi... Poi erano un gruppo. Se tu evitavi quel canale lì, trovavi il tragitto tranquillo, non è che... Era un gruppo magari che si divertiva a pigliare i fondelli, a fare, eccetera. Qualcuno lo guadagnava beffa, l'altro lo guadagnava beffa, l'altro lo attesce. Quando la gente entrava e vedeva che non poteva entrare, li prendeva e se ne andava. Evitava tutto, capito? Che no. Io purtroppo non vedo gente facendo la scema. Qualcuno ha rischiato anche di metterci la penna facendo così stupidine. Con un malato di capo acciappi sempre nel tuo cammino, che non usa mani, no, usa altre cose. Ma non è la cui difesa, tu ti fai una birata in giro, se tu sei attento magari riesci a capire, se non eri attento tu ti ridiani, che tu mullavi, quando tu mullavi tutti canti muti, non si inabizzava. Ma io so che sono arrivati anche a quel punto lì, né? Non lo so. No, raccontate. Queste cose qua non lo so, però so che si sono azzuffati, hanno picchiato gente, che una per dire, se uno faceva casino, non entracciavano in tutta la maniera di casa, quando la rampava direttamente le cubiere. Una volta c'era questo Don Diego, che diceva parolacce, si leggeva i giornalini pornografici, descriveva tutto quello che vedeva, e poi rideva, diceva, ho, ho, ho, ho, non gli ho visto proprio la casa di giocare dalle macchinette, è carina. Ma Faustino non l'hai conosciuto, quello che diceva di essere più bello di Sassa. No, non riesco a capire. Vabbè, quello non ha detto che abitava a Sassari, che era ricco, non so se l'ha mai conosciuto. Beh, lui stava con questo lanetto, era l'uomo suo, là. Cazzo, lui era Finocchione. Sì, ma era un bel bucaccione, no, il ricco era Finocchio, lui era attivo, là. Era bucaccione, raccontava tutto quanto il baracchino, tutto il suo libidia, e poi si faceva risate, e poi dice un microfono e spanda al 500, cazzo si sentiva tutti i bassi, oh, oh, oh, oh, oh. Ma poi raccontava, vive di Sanremo, era gulla anche a me, e descriveva tutto. Un giorno dato sono, le hanno detto cose, aveva risposto male, era andato in Attalino, a Nissimo, il pari, un poco di niente, è finito, non ha già mandato i carabini. Non era Marco, no? Ebbene, non ne dovevamo dire loro. Dobbiamo andare a far dire, basta. Intanto non hai mirato nome, cognome, mi pare, cosa? Sì. La prossima volta come ti riesci tu di casa, l'avevi fatto voce. Poi era un casanzino, era un casanzino perché si erano conosciuti in galera loro. Lui, questo Faustino, andava a trovare i carcerati. Faceva le beneficenze perché era ricco e l'aveva conosciuto in galera questo qua. Immagina di tu. Dai. Poi dopo che è morto mi ha lasciato un'eredità astronomica, palazzi, gasi, terreni, macchine, insomma di tutto. Ma via, vero questo? Era un bel ricco, era uno dei più ricchi di Sassari. Lui diceva, se non fosse per questo piccolo difettuccio, perché aveva la gomma, no? Fosse per questo piccolo difettuccio sarei il più bello di Sassari. sei più bello e più ricco, era sempre in cravatta, cicca, rossa, camicia, giacca, tutto tirato. Stato un feo, che le trovo. E invece qui, per andare a un momento, comunque ci avrebbe pagato un miliardo. Dai, un sabbio. Era Mascio e Buruviccio. Oh. Magari la tutti, ecco, ecco, oh, ecco. No, non è te. Lui ha usufruito di tutte quelle ricchezze che ci aveva, capito? Diventato stra-ricco. Chiappa, mi ha fatto ricche tracche. E allora? Scorrazzava in giro, lo portava a Plattamona, aveva comprato la macchina, lo accompagnava a tutte le parti, capito? E poi la femmina si è venuto due, tutto il taglio. E c'è Maroma, ha ereditato tutto quanto a lui. Che ha fatto? Ui, mamma mia. No, diciamo che questo qui è mezzo mancante, chissà se si servirà a Valdi a puzzare la naranza, tu mi suoi fatti. Facciamo questo lavoro, capito? Andavano a ziccare. Si saliva da via la mia figlia e le parte che c'era di fronte. Capito dov'è? Non pare. Allora, via, che via è quella del Koala? E comunque, vabbè, è una traversa di Viale Trento. In questa traversa c'è un'altra traversina che sale. Di fronte c'è il palazzo. Ah, tutta la via, via principessa Yolanda. Quella che va da Piazza Purrino che continua. E quella lì è la via. Non penso che sia la via principessa Yolanda quella. Vabbè, può darsi, sì. E poi c'è sulla destra rimane una traversa, si chiama che è da mio figlio. Ah, sì, ho capito, se c'è dall'altra parte. Sali quella traversa lì, quel palazzo che ti rimane di fronte, abitava lui. Sì, ho capito adesso. Nel tigre fa bacudito, c'è già mezzo i carabini giù. Ah. Ma ne dicevo che riportate questo qua. Fai la campana la giovincia ai dire. E oggi mi sono alzato. Dico. Capito come si chiama? Don Diego. Capito. Una storia. Sì, ce l'ha l'altro. Però non lo trovava mai nessuno. L'hanno cercato, sai quanta gente l'ha cercato, ma qui lui non acciampava. Allora mi hanno detto anche come faceva. Mi hanno detto gente dopo tanti anni che avevano una 500, ci avevano portato e andavano sotto casa della gente, parlava, prendevano il segnale, buon fondo a scala, poi scendevano giù e nascondevano il portatile e non vedevano nulla. Certo, bisogna essere un pochettino intelligente. Ma la macchina non ve l'antenna, non ve la nulla, quindi non te l'hai portata. Per arrivarci bisogna ragionarci su un bel. No, è paese, non era paese. No. Se lo trovavano con l'antenna del portatile fuori dal finestrino, lo pensavo che si chiava. Non credo già. Però erano furbi. Ma uno ci vuole più furbo di due. Dice, si spostavano. Aspettavano per dire, dicevano le parolacce, poi si spostavano. E tutto il sabato diceva questo qua, devo, faccio giù uno, questo per là. E il Valdi a casa da poi si pulsava. Andavano a vedere, non c'è ancora nessuno. Tanto sicuramente era sempre in quella zona. No. Dava in diverse zone. Intanto sapeva dove abitavano tutte le persone che modulavano, quindi andava sotto casa. Me l'ha detto la persona che andava con lui, figurati. Che ha fatto? E perché lì bisognava essere un pochettino furbacchione. Vabbè, che allora mi hanno portati dei mastodontici. Invece adesso sono più piccoli e lo puoi anche fregare, perché ti metti le cuffie, uno magari sai che in quella zona è il segnale più forte, vai a piedi e lo becchi. Tu sai quanto erano lunghe le antenne di portatili? Non tante portatili, erano lunghe le antenne, cazzo. Lo so, certo, per come adesso rubi te chiese. Comunque, che c'era divertissimo, lo cercavano tutti, distintamente non è mai riuscito nessuno a ciapparlo, lui che è stata una sfida grossa. Chiappa, e beh, poi i mesi di prima erano quelli che erano. Perché modulava la nostra fede, chiappa. Certo che adesso uno si pone anche un ricevitore piccolino in tasca, magari riesce a capire che tu sei in quella zona. Magari esco e prendi l'oronchio adesso, in macchina, con un bolzato, le cose. Tu piano piano, facendo finta di niente, con le cuffie nelle orecchie, quindi sta vicino alle macchine, fai una, fai l'altra, piano piano, come se niente fosse, e lo becchi. Magari anche allora, se lo vedevamo con l'antenna che buttava fuori dalla macchina, e ci apriva l'antenna, e ci vola sopra, la chiudeva in fretta, poi su la macchina. Ma anche allora si poteva fare, secondo me, con l'antenna tutta ritirata, ha messo un giubbotto con le cuffie. C'erano importanti con le cuffie, vero? Sì, c'erano sempre. C'era scritto Tea. Chiappa. Tanto più o meno la zona capisci dove è con lo smitter. Ma questo cosa fai? Ti sono buoni, diventa un giubbotto in corso e ascolti con le cuffie. Che fa vicinetti piano piano? Ma è di non ridavano il tempo a tu, sai che fa dire? Di. A meno che non si mettesse d'accordo da prima e farlo e farsi trovare prima che arrivasse. Chiedi di fargli la cazzo da che dove arrivare e da voi partiani subito tu preso. E chiama. Ma ti accicate nello stranello. E andava a dare la tuccare a ruota, pure le madri rompiano i cattolici da da voi, cani d'oro andavano a dare la sancura, e si divertivano. Certo, diciamo che non hanno mai trovato il suo, no? Diciamo che trovi il tuo, si diverte con te poi. E vabbè, allora era un modo di divertirsi, anche se non era un modo corretto e comportarsi, anche se ti ha le parolacce. Chiappa, ci ha preghito di badinato con parecchio strumento, si dice che. Comunque ne hanno fatto, la Rosa Verde che si sbronzava e poi entrava, sempre in gotto che pipa. Dai che vai la Rosa Verde, chiappa, è come se lo sentissi oggi. Cattolina 2, Maracchino. Però togli questo bimbo, c'hai un'area di superiorità nei confronti degli altri, chiappa. Mi imbriaghita. Adesso vado dalla bionda, io pensavo la bionda che aveva anche in femmina bionda, c'era la bionda sempre. Ma adesso quando da ciappare mi faceva dentro un magazzino, c'aveva il dipolo steso e se nel dipolo metteva la biancheria che lavava. Ma stendeva nel dipolo, poi c'era il letto, questa lambretta con la rosa verde davanti, per quello che si chiama rosa verde, se non c'è una rosa verde davanti alla lambretta, proprio dove c'era il coso del clacson della lambretta, c'era presente l'aveva filata lì. Poi c'aveva una batteria, non c'era manco luce in casa, una batteria di macchina, e sotto la batteria un giorno mi ha fatto vedere che era tutto pieno di sugo, ma manco te da 100.000 lire. Certo, e lui veniva come la zona. E allora, quello ne aveva un bel, io me lo ricordo, me l'aveva fatto vedere a me. Guarda, che non tu credi che sia povero, guarda qua. te li dai in casa, se vedi che anche tu ti continuano a delle biglietti, no, ogni giorno li nascondo in un posto diverso, oggi sono sotto la batteria, domani sono una cavata. Ci ha preso, mi devo, non lo sapete come volte. Mi aveva prestato un alimentatore autocostruito da lui, ha toccato l'attacco alla corrente, come ti attacco, oh, cazzo, tutto unito, la mano tutta nita mi ha fatto. Lo attaccalo, malattia. Me l'ha fatto anche scoperto, di quelli autocostruiti che però non hanno coperchio. Cioè, detto, stai attento perché se no prendi la vernice e la trascossa lì. Bene, attacco il coso, l'ho messo, me lo ricorderò sempre, l'ho messo sopra il frigorifero, attacco la spina, che manco mai non l'hai attaccato il baracchino, cazzognando, è sciolta la spina, mi ha fatto la mano nera, mi ha dato la scossa. Evidentemente aveva sbagliato qualche cosa. No, io l'ho attaccato la spina come si fa. Come hai attaccato la spina? Hai detto che era presa diretta, che non è proprio interruttore. Oh, bravo. Ma te becco un piatto. Sono andato lì tu, lo sapevo. Tu la... non l'ho usato, ho detto, non ne ho buscato un altro, che te l'ho giù di tutto, la spina è asciutta, ma via. Non è asciutta, ma giù via. Ma l'ho appena attaccato. Come l'ha attaccato alla presa? Peccato in aria. Se ne dopo. Ci ha sfruttato da buono, ma mi ha disoccupato la mano niente. Mi ha dato la scossa e mi ha fatto tutta la mano niente. Dai giù, dai, dai. Beh, mi sa già che è giunta l'ora. Che pagare. Va buona, ci sentiamo. La conosce. Buonanotte già, buonanotte Luca, se ci sei. Non c'è Luca, se c'è andato a me, buonanotte. Beh, sicuramente, ciao, buonanotte.